di l'ultima birra, fammi compagnia, la mia, spero che poi la vedo a casa mia. E tra due ore ripartono i tram, fammi fumare, tanto ti devo montare a quest'ora, mi sa che a dormire. E passa pure la saracinesca, non credo che né io né te domani si andrà a messa, curando un po' questa amarezza che ho. Perché ero io quello che non parlava, il bambino così magro che il mondo picchiava, ragazzino che tutto voleva e quando non poteva rubava. Ci sono quelle sere che sono più dure, dove serve bere via le paure e dentro ci si sente piccoli per sempre. In due minuti sparisco, fammi dire il disco, se la penso perché ho fermato ma a volte non capisco. Se chi mi dice ti amo sappia bene, sono solamente come mi chiamo io che ho chiuso fuori il bene e fatto entrare i guai, bruciando i miei vent'anni ciò che guadagnai, viaggiando, viaggiando senza arrivare mai. Perché ero io a dare fuori di matto quello che è l'unico amico che ci arriverà il gatto, quello che a un certo punto sparì. Quelle sere che sono più dure, dove serve bere via le paure e dentro ci si sente piccoli per sempre. Ci sono quelle sere belle da morire, dove vuoi giocare invece di dormire, quando ci si sente piccoli per sempre. Da grandi nel libro cuore ora ricordo soltanto infanti, piccoli come coltivi di vite, giochi come quando la mamma e il papi ascoltavano tu, intanto stavamo imparando tante tante poesie che hai dimenticato, ma le canzoni dei cartoni è quello che hai salvato, piccoli come Bee Gees, una volta forse ci facevamo business solo poli stringue vina prima e coach e forse e vedi il gioco delle patatine giù con l'albo delle figurine, piccoli prima di crescere assieme al prezzo del barile. Ogni tanto stanco manco stai lottando con Rocky e Rambo, ma ne vale la pena anche quando ci sono quelle sere che sono più dure, dove serve bere via le paure e dentro ci si sente piccoli per sempre. Giocare invece di dormire quando ci si sente piccoli per sempre. Ci sono quelle sere che sono più dure, dove serve bere via le paure e quando ci si sente piccoli per sempre. Ci si sente.